vede quando sai. La prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come, ma mi è entrata dentro e c'era stata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso. Vivo per lei anch'io, lo sai, e tu non esserne geloso. Lei di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come una stella in camera, di chi da solo adesso sa che anche per lui, per questo io vivo. Verso un pianoforte, la morte lontana, io vivo per lei. Vivo per lei che spesso sa essere dolce e sensuale, a volte piccante ma è un buio che non fa mai male. Vivo per lei, lo so, mi fa girare di città in città, soffrire un po' ma almeno io vivo. Dolore quando vivo per lei dentro gli hotel, un piacere estremo cresce. Vivo per lei nel vortice, attraverso la mia voce si espande e amore produce. Vivo per lei, nient'altro, e quanti altri incontrerò che come me hanno scritto in viso. Io vivo per lei, io vivo. Vivo per lei al limite, anche in un domani. Vivo per lei al margine, ogni giorno la conquista, la protagonista sarà sempre per lei, perché oramai io non ho altra via d'uscita, perché la musica, lo sai, la vera non l'ho mai tradita. Vivo per